Benvenuti a tutti all'interno di I Love Italy, il rotocalco in lingua italiana in onda sulla WRMI Radio Miami International. In apertura vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41 e su kHz 9955 pari a metri 31. Se volete interagire con la trasmissione abbiamo la mail personale del programma andrea@mangiarotti.org andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo anche il numero per inviare solo ed esclusivamente messaggi WhatsApp 377 456 3033, 377 456 3033, più 39 per chi ci scrive da fuori della nostra bella Italia. Solo messaggi WhatsApp. Poi abbiamo l'indirizzo della radio, Dabor RMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite inviarci magari dei rapporti di ricezione in formato cartaceo. Siamo nei mesi più belli perché, come ben sapete, in questi mesi, in questi giorni è meglio dire, che ci separano dalla Santa Pasqua, tutto diventa più bello, più magico. Immaginiamo di percorrere 40 giorni nel deserto con nostro Signore Gesù Cristo e insieme a Lui cerchiamo di essere magari più buoni, meditare, pensare e così via. In questi giorni, come dicevo, almeno per quanto concerne il sottoscritto, molto magici, molto particolari, mi piaceva leggervi un capitolo estratto dal Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo 3:13-17. In quel tempo, Gesù della Galilea venne fino al fiume Giordano e si avvicinò a Giovanni per farsi battezzare da lui. Ma Giovanni non voleva e cercava di convincerlo dicendo: «Sono io che avrei bisogno di essere battezzato da te, e tu invece vieni da me». Gesù rispose: «Lascia fare per ora, perché è bene che noi facciamo così la volontà di Dio sino in fondo». Allora Giovanni accettò. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua e all'improvviso il cielo si aprì. Egli vide lo Spirito di Dio, il quale, come una colomba, scendeva su di lui. Ed il cielo venne una voce: «Questo è il figlio mio, che io amo e io l'ho mandato». In Matteo 3:13-17 immaginiamo tutti la semplicità, l'umiltà e anche la grandezza di nostro Signore Gesù Cristo, che, pensate un po', si mette in fila con i ladroni, con le prostitute, per ricevere il battesimo da Giovanni il Battista, lui che era un grande, lui che era il nostro Salvatore. Pensate questo, che gesto importante che è. Perché a quel tempo venivano battezzati soprattutto i ladroni, le prostitute, persone magari ritenute scomode ai margini della società. Ora vi vorrei portare un esempio meraviglioso che ci può anche far pensare, far meditare. Cosa ci dice il Vangelo di Matteo 3:13-17? Può essere un esempio per tutti noi nella nostra vita. Facciamo un passo indietro e lasciamo spazio a chi ha bisogno, agli ammalati, agli anziani, a chi ha problemi di salute e così via, senza giudicare, proprio come faceva Gesù Cristo. E ricordiamo anche queste bellissime parole di Giovanni il Battista: «Sono io che avrei bisogno di essere battezzato da te, e tu invece vieni da me». Esatto, È proprio questo il senso, mettersi in fila, magari mettersi per ultimo, lasciar passare gli altri. Se penso a questo bellissimo capitolo del Vangelo, mettersi in fila, far passare gli altri e soprattutto dare spazio agli ultimi, mi sovviene un avvenimento che purtroppo di cronaca è avvenuto in questi mesi, o meglio, è avvenuto a settembre in Italia. Nel giro un po' in tutto il mondo abbiamo così tanti preti, sacerdoti, sia di religione cattolica che di religione ortodossa, ma anche della chiesa avventista e così via. I cosiddetti preti di strada, queste persone che si mettono al servizio delle persone che hanno bisogno, per lo più dei clochard in cerca di un pasto caldo o di un letto o di una coperta calda. Tra i tanti preti di strada che mi piacerebbe ricordare in questo appuntamento, anzi vorrei proprio dedicare la puntata a lui, vorrei raccontarvi di Don Roberto Malgesini. Ma chi era Don Roberto Malgesini? Perché purtroppo è scomparso a settembre, 15 settembre 2020, è stato ucciso da uno sbandato. Don Roberto Malgesini è stato un presbitero italiano ucciso per l'appunto da un senza dimora che lui aiutava. Don Roberto nasce a Morbegno, si diploma ragioniere e lavora per 3 anni presso la Banca Popolare di Sondrio. Quindi questa persona, un bel lavoro, un bello stipendio, lavoro in banca, però questo non gli basta. È anche animatore nella parrocchia Sant'Ambrogio a Rogoledo di Cossio. Però poi matura l'idea di entrare in seminario. Dopo l'anno propedeutico a Brescia, nel 1999, inizia la formazione al sacerdozio, diventando nel 1997 proprio sacerdote. Inizia a svolgere la sua funzione di parroco a Sondrio e nei mesi successivi in altre parrocchie, fino a che arriva nella città di Como e viene nominato vicario parrocchiale, prima a Gravedona e poi a Lipomo. Nel 2008 inizia un'esperienza di servizio ai più poveri presso la chiesa di San Rocco a Como con un gruppo di volontari per dare un pasto caldo ai clochard ogni mattina. E pensate un po', rischia anche la multa per aver distribuito la colazione ai clochard. Quindi questo sacerdote di strada si mette al servizio degli ultimi, dei clochard, degli invisibili che nessuno vuole vedere, rischia anche multe. Questo è quanto. Purtroppo, alla mattina del 15 settembre 2020, mentre si preparava la consueta distribuzione di un pasto caldo ai poveri, viene ucciso coltellato sotto casa dove abita, in piazza San Rocco a Como, da uno dei migranti che lui stesso assisteva. Durante l'udienza generale del 16 settembre 2020, anche il Santo Padre Papa Francesco lo ha definito testimone di carità verso i più poveri e nell'omelia del 15 novembre 2020, Giornata Mondiale dei Poveri, lo ha ricordato come un esempio tra i servi fedeli di Dio, che non fanno parlare di sé, attenzione, non fanno parlare di sé, ma vivono così, servendo. Lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in data 7 ottobre 2020, ha firmato su proposta del Ministro degli Interni il decreto di conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Don Roberto Malgesini. Il suo ricordo è ancora vivo. Il 25 novembre 2020 è stato aperto a Como un dormitorio per i senza fissa dimora. Questi sono gli esempi, insomma, della fede, della religione, questi esempi meravigliosi di questi parroci di strada che non chiedono nulla, come c'è scritto nel Vangelo, quando fai la beneficenza non fai mai sapere che fai beneficenza, non metterti sotto i riflettori, anzi, tutt'altro, togliti dai riflettori e in silenzio magari compi opere di carità. Un'altra cosa bellissima che è capitata in questi giorni, appunto, è che il Consiglio Comunale di Como hanno deciso, con una mozione bipartisan firmata da maggioranza e opposizione, di conferire alla memoria di Don Malgesini, scusate, o una piazza o una via. Quindi a Como verrà dedicata una piazza o una via al nostro caro Don Roberto. La maggior parte dei comaschi ha imparato a conoscerlo solo dopo la sua morte. Prima non si sapeva chi era questa persona, non era sotto i riflettori come certa gente che si dipinge di chiesa in giro qua e là sotto i riflettori. Probabilmente nessuno lo conosceva perché Don Roberto aveva poco tempo per parlare e troppo da fare per aiutare quel piccolo esercito con la pelle di tutti i colori che nella ricca Como dorme e vive in mezzo a una strada. Questa era la puntata di I Love Italy di quest'oggi. Io, come faccio spesso, ringrazio Jeff White per avermi ospitato sulla sua Double RMI. La puntata di quest'oggi di I Love Italy, che insomma ci fa arrivare fino alla Santa Pasqua, ci fa passare attraverso la Quaresima, la vorrei veramente dedicare a Don Roberto Malgesini. Io, cari amici e care amiche della WRMI, vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione. Se volete comunicare con Andrea, andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 Stati Uniti d'America, oppure potete anche andare sul sito www.doublermi.net oppure sul mio sito andreamangiarotti.com. Grazie ancora per l'attenzione e, come si dico spesso, in queste belle giornate che ci porteranno fino alla Santa Pasqua, queste belle giornate, questo cammino di Quaresima, dedichiamo questa bella puntata a Don Roberto. Un abbraccio a tutti e grazie ancora. Rimanete su Double RMI perché i programmi continuano con dei grandi programmi, dei bellissimi show un po' in tutte le lingue in questa bella radio multietnica. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.